Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Sono le 21 e 5 minuti primi in questo istante. Buonasera a tutti. Oggi è il 3 aprile del 2012 e siete all'interno di Blu Radio Sera, la programmazione serale di Blu Radio Veneto. Un buonasera vi arriva da Flavio Bilato e da Maurizio Calzavara, che insieme a me conduce questa trasmissione del martedì sera. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera ai nostri ascoltatori. Allora, anche questa sera musica live, ormai li abbiamo abituati proprio bene, interviste ai grandi personaggi della musica italiana, ma non solo italiana. Abbiamo ospitato anche qualcuno che arrivava dalla Croazia, qualcun altro dalla Svizzera, dal Belgio, insomma ci stiamo allargando un po' alla volta, però ci piace anche tornare in quei territori che ci sono molto vicini. Quindi in questa serata dal Veneto ci spostiamo un attimino, passiamo il lago di Garda e troviamo la Lombardia. È tra le città che ci è venuta a trovare più spesso qui all'interno delle programmazioni serali di Blu Radio Veneto, c'è Bergamo, e quindi da Bergamo, direttamente per noi ascoltatori di Blu Radio Veneto, c'è Osvaldo Ardenghi. Buonasera Osvaldo. Buonasera a tutti, ciao. Allora, come va Osvaldo? Fatto buon viaggio? Sì, perché guida Marco Grompi. Eccolo qua. Quindi salutiamo anche Marco Grompi, che ha accompagnato appunto non solamente per il tragitto autostradale, ma lo farà anche stasera con la sua chitarra. E poi c'è Lori Pontigia. Ciao. Ecco qua, e poi ancora Lori che è rimasta lì ferma a seguire sia le lucubrazioni di Osvaldo sia il tragitto di Marco Grompi direttamente da Bergamo. L'ho portata apposta perché è molto riservata. Perfetto. Allora, più tardi avremo modo anche di sentire la voce come corista di Lori Pontigia, ma anche vorremmo conoscere anche da lei, magari più tardi, anche quali sono le emozioni di farsi le serate assieme ad Osvaldo Ardenghi. Ma devo calcolare che lei le ha fatte con B.B. King, quindi benissimo. Quindi è sempre emozionante comunque. È sempre emozionante. Bene, allora Osvaldo Ardenghi, una carriera che sì, sta andando a gonfie vele, sia come musicista, sia come cabarettista, insomma ne hai di cose da raccontare anche questa sera. Sì, come cabarettista meno. Perché? Come mai? Non lo so se sia abbassato il livello generale o se sono fuori moda io. Comunque penso che mi rifarò presto. Bene, allora dove non ci sono soldi mi chiamano. Bene. Sì, beh, si fa così, no? Quindi se ne approfitta sempre. Ma poi avremo modo anche di approfondire questo discorso cabaret, perché ricordiamo, il cabaret non è solamente fatto per far ridere, ma è fatto anche per far pensare sorridendo, no? È questo che mi frega. È questo che ti frega, benissimo. Ecco, perché noi parliamo anche di canzoni questa sera, in particolare del tuo nuovo lavoro, Osvaldo, che si intitola, spero di pronunciarlo correttamente perché non è inglese, non è una lingua internazionale, ma di internazionale è che è dell'Atalanta, no? Che la chiamano anche un po'. È l'unica squadra che ha una dea sulla bandiera. Hai capito. E quindi questo album che va dritto al cuore, quindi esatto. Cerco di pronunciarlo Dretch al Cœur. Esatto, perfetto. È pronunciato giusto. Esatto. Quindi questo dritto al cuore, un album formato da 8 canzoni che vuole arrivare dentro. Tu per un attimo ti sei allontanato, diciamo, dal gruppo. No? E hai pensato di fare un qualcosa di forse più intimo, no? E che però risulta essere anche socialmente utile. Mi fa piacere, ma è stata un'idea di Emilio Pappalardo, che è stato il mio promoter nel mondo del cabaret. Mi ha detto: guarda, se ti va ti pago lo studio, mi piacerebbe, come no, anche senza sapere perché, uno dice ti pago lo studio, sì, vado dopo di corsa. Vado di corsa. E allora, guarda, se fai qualche canzone in dialetto te la produco io, e così è stato, è venuto sto lavoro. Ma tu hai fatto altri dischi però non in dialetto? No, ho fatto un altro disco che si intitola Brevemente in italiano nel 2004, nel 2005 se non mi ricordo, e poi ai tempi avevo fatto, mi è stata prodotta una cassetta, la prima cassetta, era il musicassette dove c'erano dei pezzi che poi ho ripreso con i Rastis, uno di questi è stato che tu sei parte integrante di Rastis, dobbiamo dirlo questo. qui c'è Marco, un'altra parte di Rastis. E avevo cominciato a fare le canzoni in dialetto già nel 92-93, ma anche lì ero troppo avanti. E quindi non andava bene. Certo, tanto per parlare di canzoni in dialetto, no? Diciamo che guardando un po' il panorama della musica italiana, chi si era mosso con un po' di successo era stato solamente la musica che proveniva dal sud, no? Quindi sì, sì. Tutti quei cantanti che cantavano in napoletano, in romanesco, erano quelli che andavano per la maggiore, e mentre venivano un po', diciamo, messi da parte personaggi che dal nord volevano proporre la loro musicalità con la loro lingua. Ancora adesso è un tema scottante questo. Sì, però se andiamo a vedere bene, quelli che l'hanno fatto sono di grande livello. Sono stati Nanni Svampa e Iannacci. Sì, sì, sì. Nanni Svampa dei Gufi, no? A quel tempo. Iannacci è stato uno dei primi anche lui a fare le canzoni in dialetto. E che canzoni. Sì, certo. Però i romani, quelli del sud hanno una musicalità diversa. Ce l'hanno addosso proprio la musicalità. Sì, quindi sì. Dove fa caldo sono più musicali. Sì. Certo, invece in quel di Bergamo, in mezzo alle montagne, quasi. Montagne, se dopo un paio di calici, allora si viaggia. Allora si viaggia, ci si riscalda il cuore. Ma prima è difficile, Vabbè, adesso mi veniva in mente, qualcosa di Iannacci, tipo El Purtà e scarpe al tennis, no? Quindi... Sì, sì, lui era partito da lì, cioè era partito con Vengo Anch'io, Not to Know, è stato in giro per gli studi di medicina, così, Stati Uniti, Sudafrica. Quando poi è tornato mi diceva che ha scritto sta canzone per caso ed è ripartito di nuovo, e da lì è ripartito Iannacci, che tra altre cose tu conosci molto bene per una collaborazione continua. Ho lavorato 4 anni praticamente nel suo locale tutte le sere del martedì alla domenica. Ma ti ha scelto lui oppure è stato un caso? Perché lui avevo letto sul giornale che apriva sto locale a Milano che si chiamava Il Bolgia Umana. Con 2 sale separate, in una bar ristorante e musica, in un'altra la sala di cabaret, un piccolo teatro. Mio cognato mi fa: dai, vai a fare un provino. In quel periodo io avevo iniziato a fare qualche seratina qua e là nel locale di Lori Pontigia e dei suoi genitori, perché ho cominciato lì. Tutto coincide allora, Sì, alla fine allora sono andato giù in questa palestra, eravamo in 140 nella via Pasteur, era la palestra dove lui insegnava il karate. Sì. E lì ho fatto il provino e dopo un mese mi hanno chiamato, ma la scuola non si fa perché vi ha presi in 3, tu e un duo di Cosenza. Sono andato giù, mi ha detto: guarda, fai ridere, ti do lo stipendio, si lavora tutte le sere, martedì e domenica, tranne luglio e agosto. E da lì sono partito. E quindi si è scoperto. La fabbrica, e mi sono scoperto comico. Sì, ti sei scoperto comico e anche per alcuni un bravo ragazzo. Sì, no, in questo caso, quindi. Ed è proprio per questo che hai inserito la prima traccia che si intitola Ubrauschet. Ecco qua. Ubrauschet. Allora ce l'ascoltiamo in rigoroso dialetto bergamasco, poi qualche parte verrà tradotta. Ma non sono io quello, Ah, non sei tu? No, questa canzone è il classico tipo che quando entri nel locale, dopo 2 calici, ti guarda e ti dice: cos'hai da guardare? Ah, ho capito. Parte da lì. Benissimo, allora ce l'ascoltiamo. Blu Radio Sera. Control. Deci sabat si. Radio Sera. Blu Radio Sera. E abbiamo ascoltato non solo qualche difficoltà Ubrauschet, poi naturalmente il nostro apparecchio CD che ci ha accompagnato per molto tempo ha deciso proprio in questa serata di cedere un pochettino, fa parte anche questo della diretta. Ci siamo ascoltati allora Un bravo ragazzo, quel bravo ragazzo descritto da Osvaldo, che con un bicchiere di vino in più in corpo perde completamente l'equilibrio a se stesso e lo fa perdere anche gli altri. Esatto, è il classico tipo che veniva alle mani, ma poi in realtà alla fine gli mancava la donna, la donna l'ha plagiato, anzi tanto è vero che poi io mi ricordo di quello lì, raccomandava di non litigare agli altri, dopo però. Dopo, prima prima è un po' diverso. Prima era diverso. Quando erano stesi a terra. Lo alzava le mani. No, ma è vero, è tipico anche magari dei nostri genitori o gli anziani. Era un, beh, da giovane era, poi ha trovato una brava ragazza e l'amore fa fare queste cose, insomma. Meno male. E questa musica un po' ironica, come mai l'ha inventata? Non lo so, mi è venuta così e... perché comunque è da locale, succedeva nei locali, parti con l'intenzione, allegra, si va, e alla fine trovi uno che ti dice cos'è da guardare. C'ho gli occhi, cosa faccio? Ti fermo immediatamente, però tu rispondi suonando. Sì, di solito evitavo perché non un po' per paura, un po' perché non so come reagisco a una cosa così... Io poi il controllo lo perdo anche senza bere. Quello discorso. Quindi volutamente, che è peggio. Non ti è mai capitato che uno del pubblico ti potesse dire qualcosa in diretta, cioè diceva non sono d'accordo con quello che tu dici? Su quando d'accordo no, mi ricordo una volta in centro Italia, non dico dove, un tizio è entrato che, siccome racconto delle storie, che l'inizio si aggancia magari con la fine, e non capiva, era un po' alticcio appena appena, è entrato e mi fa che stai a di? Non era bergamasco, quanto ho capito. No, io mi sono fermato, guarda, se hai qualcosa da dire, vieni qua sul palco, c'è il microfono, ricordati che l'asta in fondo è di Ghisa. Poi si è alzato un tizio che gli ha detto, ma che state zitto! Allora si è dato. Beh, sono il bello della diretta, se vogliamo dirlo, però naturalmente se l'ascoltatore rimane ascoltatore e applaude oppure se ne va semplicemente, è la cosa giusta che deve fare. Nel cabaret, se uno ti fa la battuta che è bella, approfitto per farne un'altra, allora diventa una cosa fra me e lui, vedi che lo fa con garbo, con intelligenza, allora certo, ci sto. E quindi... Perché non vado mai sul pubblico io. Mi trovo antipatico. Sì, ci sono molti invece, diciamo, cabarettisti che usano giocare molto spesso col pubblico e questi li rende fighi, no? In questo caso. Sembra. Sì, perché se un comico, se sono lì al pubblico che viene su di me, non so come va a finire, potrei rispondere. Perché poi tendenzialmente lei c'è il fisico, i capelli, no? Quelle cose fastidiose che uno magari si offende e poi non mi piace ammiccare col pubblico. Ecco, ricordiamo i nostri ascoltatori che c'è Osvaldo Ardenghi con noi per la presentazione del suo Dreccia al Core. Si può anche ascoltare la radio tramite il nostro streaming audio collegandovi al bluradioveneto.it, che è il nostro sito internet, e cliccare all'interno della pagina riservata a Osvaldo Ardenghi e quindi ascoltare la diretta, perché la nostra non è solamente una radio in FM. E ne approfittiamo per salutare già una persona che ci sta ascoltando all'interno del gruppo Facebook. C'è Gianmario che dice: ho ascoltato già l'intervista fatta l'anno scorso, stasera un occhio al Barcellona e un orecchio alla radio. E quindi ricordiamo che c'è anche Barcellona-Milan che ci sta facendo da concorrenza, però c'è una giusta indicazione di come seguire la partita senza farsi stordire da tutti i commenti sportivi. Ho fatto un bel sacrificio anch'io a venire qui, a rivista volentieri anch'io la partita, però per me stesso, no, a parte gli scherzi, dunque, tanto non penso che abbiano scampo quelli del Milan, ma non per perché il Barcellona sono bravi, sono divertenti, è giusto che sia, è un ciclo certo, è giusto che, non a caso sono campioni del mondo e d'Europa. Bene, bene. Maurizio. Sì, musicalmente come hai deciso di impostare questo disco nuovo in bergamasco? L'idea come ti sono nate? Ma le idee arrivano all'improvviso. Infatti quando un artista dicono è fuori di testa, è in giro, ma non è in aria, è fuori di testa. Vive con attenzione che passi di lì l'idea. Ah, quello è importante. Devi cogliere l'idea. Dopo cogliere quando l'attimo. L'idea è fatta. Esatto. Esatto. Infatti nascono così le cose. Se mi ci metto a pensarla non ce la faccio. E invece pensare poi sull'idea, allora sì. Ah, è chiaro, pensare quindi sull'idea. Si lavora su mente libera o su mente impegnata da molte altre cose? No, di solito si lavora su mente libera, altrimenti poi se sono in zona a casa così le registro subito, se no poi le perdo e dopo magari sta lì anche dei mesi un'idea, dipende, il proseguo viene dopo o magari mi sono particolarmente in vena, sto lì, ci penso, oppure ho scritto un testo, poi lo lascio lì, vedo se funziona metricamente, o magari gli cucio addosso un'altra musica e non quelle che ho già, dipende. Hai anche tu quel cassetto famoso dove si buttano i fogli e si tornano a riprendere qualche tempo dopo? Sì. Sì, ma alcuni da anni. Ah, bene. Da vent'anni. Ma quando il produttore ti ha detto ti faccio fare il disco gratis, ti ha dato un tempo oppure no? No, mi ha dato un tempo, mi ha dato i tempi sui giorni di registrazione. Ho tot soldi e mi fai tot. E infatti ci ho impiegato 5 giorni. Sei stato velocissimo. Un po' grazie anche al fonico e ai musicisti, perché conta molto conoscere lo spirito dell'artista. Stavamo parlando proprio mentre venivamo qui con i turnisti. Se non è un genere che gli si addice particolarmente, sì, lo esegue, ma non so se ha colto lo spirito fino in fondo. Come chi ti versa il cartellino e basta. Invece Marco Grompi, che mi conosce da una vita, anche sotto l'aspetto comico così personale, quindi c'è stato un po' uguale anche col bassista dei Rastis, Dario Filippi e Max Pizzi. Alla batteria invece c'era sto Gambardella, Mauro Gambardella, che è un batterista bergamasco molto giovane, sui 26 anni, bravo, suona anche vari strumenti. E quindi ho preso lui per la versatilità, perché questi sono generi un po' diversi, dal country al rock al blues. Anche ci ha messo anche del punk, ci hai messo. Sì. E poi, quello non fa mica male, assolutamente, fa bene. Assolutamente. Poi avremo modo di ascoltare anche la versione punk di Osvaldo Ardenghi, ascoltando un altro pezzo del disco. È giunto il momento di far suonare le chitarre. Cosa facciamo ascoltare ai nostri ascoltatori? Facciamo Dresselkör. Ok, andiamo. Che è un omaggio all'acqua. È legato al mio territorio, ma i fiumi e i laghi sono un omaggio all'acqua. Certo. 1, 2, 3, 4. Se la strada la ma porta in Val Seriana, ma aspetta gli amici de Castiù. L'acqua del Sere la cor un po' nervosa, ma è da immaginare come l'era bel tanti anni fa. Viaggi se la strada la ma porta in Val Brembana, o il sol al rio un po' più tardi. L'acqua del Brem la cor un po' più scura, ma è d'immaginare come l'era bel tanti anni fa. I fiumi che bagna la metera, scor tra i prede e la gera, i par della montagna, i tersa la pianura, i vadreccia al cœur del più grosso. facesse la strada lama portan Valcalina, scondit in mes al verto lac denden. E un buco come l'ele, il tarda come perdi, ruine mi al vestir, o appena quel. Viagesse la strada la ma porta in Valcalepe, lega il vibù e la di sé. L'empo più grande el segna i confin, da pedet versal col batel. I lac chi bagna la metà s'aspecia la luna la sera, i stelle i parintera, i luce una colana, i patrecia al cu della sera. I va treccia al cu della sera, treccia al cu della sera, treccia al cu. Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Osvaldo Ardenghi, Dreschal Kor, ospite qui dagli studi di Blu Radio Veneto. Ci siamo ascoltati questa dritto al cuore che è un po' un viaggio, un percorso fluviale, come dicevi giustamente, che va a colpire tutte quelle che sono le zone più, diciamo, più famose e più serene geograficamente parlando. Del Bergamasco, sì. Del Bergamasco. C'è la Val Seriana, che è una valle che sono legato particolarmente, perché ho suonato molte volte in quella zona e mi sono anche divertito privatamente. In Val Brembana invece è già un po' più, come dico, come si dice in bergamasco, a rovescio, il sole arriva un po' più tardi. Sì. E quindi è un po' più scura, persone un po' più chiuse, ci sta, fa parte proprio della collocazione. Sembra così, ma non sono distanti. Ma il fatto del sole e il sole che arriva tardi ti cambia. Certo. Ti cambia. Altre cose, mi ricordo Val Brembana, qualcosa tipo Cocchi e Renato, che portavano le loro notizie dalla... Ah, il poeta, il contadino e i tutti. Sì. Ho fatto due puntate con chi era nato in Nebbia, in Valpadana, quando negli ultimi anni, 6-7 anni. Sì, quando si sono riproposti. sì. Posti, però loro avevano questa cosa qui del poeta contadino. Sì, sì, fantastico. Facevano di quelle scenette. Allievi di Iannacci anche loro. Ma sì. Quanti allievi ha avuto Iannacci? Ma quelli del derby tutti. Ah, quelli del derby tutti. Perché lui era il capocomico, lui scriveva e loro seguivano, dalla gallina ad un animale intelligente, quelle robe lì. Abato Antonio era il tecnico delle luci del derby. Che la mamma la guardarobiera e il proprietario lo zio. Ah, tutto insieme ricordo. Poi lui faceva il tecnico delle luci anche i gatti di Vicolo Miracoli. Poi da lì è partita una cosa, mi diceva Iannacci: senti, potresti farmi una voce fuori campo? Ehi, senti, bello, sposti. E fa come l'ha fatto, è venuto giù il locale, è cominciato a ridere e da lì è nato il Cervo, Cervo Primavera e tutte le altre. Teocoli, Boldi, Paolo Rossi. Sì, sì, tutti là erano. Porcaro, sì, sì, sì. Vedi cosa si fa a vivere a Padova? Andare lì da quelle parti ci si divertiva a quel tempo, allora, a quanto ho capito, no? I tempi del derby, sì. Sì. Poi Iannacci è un genio straordinario. Quindi. Comunque tu eri ancora giovanissimo allora, sì, quando sì, partecipavi, sì, a queste. Però mi ricordo di Cocchi e Renato da ragazzino, mi piacevano molto. Eh sì, erano. C'era anche Boldi, mi pare. Boldi e Teocoli. Beh, Boldi voleva fare il taxista. Ah, perfetto. Iannacci ha detto: guarda che fai ridere. No, basta fare il taxista. Per dire. Teocoli cantava nei quelli. Sì, esatto. Gli ha detto: lascia stare. Sì, ma quando dover cantare una bambolina che fa no, non l'ha cantata. No. Per quello è il discorso, ha perso l'occasione. Dopo lui è diventato famoso ai tempi perché imitava Celentano. Certo, e invece Iannacci è riuscito a seguire sia il suo percorso, diciamo, da artista, sia il suo percorso, diciamo, da professionista nel campo della sanità. Della medicina, sì, infatti ha una passione sfrenata, infatti quando si parla di medicina con lui cambia completamente atteggiamento e modo di fare, diventa molto serio. Gli piace molto. Ha sempre, infatti ci pensavo, hai fatto tutto per gli altri nella vita, perché il medico cura gli altri, ha insegnato il karate agli altri, ha insegnato la comicità agli altri, poi mentre ha questa predisposizione per gli altri. Che suo figlio, tra altre cose, ha seguito molto Paolo, perlomeno. Suo figlio, sì, l'ha sempre accompagnato negli ultimi 15 anni o 20 anni come pianista. Come pianista, sì. Lui è un pianista alla fine, è un musicista, sa arrangiare, lavora un po' in studio così. Ma è difficile cantare, seguire un genio come Iannacci, imprevedibile, musicalmente parlando. Sì. Ma sono anni che usa gli stessi musicisti e, che poi lui sembra così. Sembra così, ma quando si suona, si canta così è preciso, anche se sembra con la voce lì borderline. Sì, esatto, sì. Ma lui c'è sempre, No, ma una cosa che Osvaldo non dice è che Enzo Iannacci è ospite nel suo disco, non questo, ma in Brevemente canta il Bonzo. Ma l'avevo lasciato, credo. Sì, sì, ce l'abbiamo. Sì, no, ma visto che parliamo di Iannacci, vale la pena dirlo. Certo, il Bonzo è una canzone che ha scritto con Dario Fo tantissimi anni fa. È stata una canzone di stringente attualità. Molto. Adesso si dà fuoco anche non solo il Bonzo. Vogliamo sentire un attimino un breve passaggio di questo Bonzo, te lo. Adesso non mi ricordo bene perché non me l'accompagnavo mai, avevo una band che mi portava a fare quella roba qui. Han detto che è un bonzo, chi è? Un prete buddista? Ah, si è bruciato sto bonzo. Si è cosparso di benzina nella piazza principale e poi è. Cosa è successo? Niente, si è dato fuoco da sé. E che poi la facevo in una versione funk con una divagazione leggermente jazzata, dove non suonavo perché non sono capace di suonare il jazz, lo percepisco poco. Qualcosa prendo, finché è classico lo becco, appena un po' più free mi sfugge. Non è sulle tue corde, no, anche perché le tue corde sono quelle del folk, del rock, del folk, appunto suonando con i Rastis, c'è quindi una, diciamo, una, come dire, una passione propria per Neil Young, per tutta la sua musica. È cominciata nel 73, la passione per Crosby, Stills, Nash e Young all'inizio. Young, quando ho cominciato a sezionarli tutti a quattro, allora poi è venuto anche Young. Hai scelto Young praticamente, tra i quattro. È iniziato tutto un pomeriggio del 73. Avevo 14 anni, lavoravo in fabbrica, facevo 7 ore al giorno perché non avevo 15 anni. E uno che aveva la macchina, un diciottenne all'epoca, mi fa: ti piace la musica? E mi fa sentire il Four Way Street, mi fa sentire Carry On, al break con le voci, cambiata la mia vita, perché vengo da questa cultura popolare dei canti con le armonizzazioni, però quella roba lì non l'avevo mai sentita. Non è che mi ha colpito tanto il fatto di quattro che cantano intonati in armonia, ma la pasta vocale, che non l'avevo mai sentito, e da lì sono partito, e poi si è sviluppato tutto il disco. Ho cominciato con loro, gli America, gli Eagles, e via discorrendo. E comunque il latte l'ha dato proprio questa canzone, allora? Sì, sì, ho cominciato da lì. Eccola qua. One morning I woke up and I knew hai avuto un buon via adesso che risento la canzone. Ero attorniato da ragazzi che ascoltavano buona musica in fabbrica, e quindi poi uno mi ha passato i Jefferson Airplane, uno mi ha passato Etta James, però, che aveva trovato il disco omaggio nello stereo che aveva comprato. Assolutamente. Sì, quindi... mamma, mi ricordo. Etta James te la danno. No, l'ha tenuto, lui me l'ha messo su cassetta, me l'ha registrato. Io poi mi sono fatto portare il CD dagli Stati Uniti dal mio cugino, perché qui non lo trovavo. E poi succedono queste. È successo anche a me, che ho dovuto dare un disco perché non avevo il giradischi e adesso mi deve ancora tornare a distanza di tempo. Allora, no, abbiamo parlato di personaggi famosi, però c'è un personaggio famoso che è scritto sulla tua chitarra, e chi ha modo anche di entrare in possesso del tuo disco vedrà anche questa dedica speciale che ti ha fatto, Warren Haynes e David Bromberg. Ricordiamo Warren Haynes, che è uno dei personaggi chiave degli Allman Brothers, e poi che è stato anche con i Dead, esatto, dopo lo scioglimento dei Grateful Dead, insomma, vivo, i tour dal vivo. Ecco, nei tour dal vivo, e quindi la sua band. Sì, giusto. E quindi c'hai questo autografo che si fa vedere. Sì, perché gli ho dato il pennarello, l'ha scritto lui, quello. Non gli ho detto scrivilo grande, l'ha scritto è proporzionato alle sue dimensioni. Sì, perché ricordiamo che Warren Haynes è ben messo tra capello e corporatura. E pancia non è male, diciamo, all'americano, no? Certo. Però è una persona squisita. No, ma lì era nato. Un giorno vado da Marco Grompi, dico c'è una notizia bomba, arrivano i Goff to Mule a Milano, e mi fa: io ne ho un'altra più bomba, siccome vengono per la casa distributrice per cui lavoro, abbiamo i pass, andiamo a prenderlo. Ecco, ho lievitato e da lì poi è tornato in Italia, l'abbiamo rivisto tutte le volte che è venuto in Italia, noi l'abbiamo incontrato, tranne l'ultima volta che lui non c'era, a Genova, che ha fatto la data secca col gruppo Soul Blues. Sì. Esattamente. L'autografo di Devin Bromberg è un personaggio che io ho sempre amato, perché anch'io. Dylan Docet o Dylan non Docet, dipende dai punti di vista. Ma David Bromberg è uno che nel 79 era venuto a Ponte San Pietro, un paese fuori Bergamo, una decina di chilometri, e io dovevo rientrare in caserma a Noceto, in provincia di Parma, era una polveriera. E ho detto: no, mi arriva fuori casa, non posso vederlo. Io la settimana dopo avevo 48 ore di permesso per tornare a casa, e venerdì suona a Parma. Ho detto all'altro commilitone: senti, vai tu, libera uscita, che io sto qui, vado a vedere questo. Ho chiamato il taxi, ho lasciato incustodito la polveriera, mamma mia, che sarei in galera ancora adesso. Sono andato là, ho visto il concerto, erano un trio acustico fantastici, e sono rientrato immediatamente. Quando poi è venuto al Dalverme di Milano, eravamo con Marco Grompi e Giada Sale, la violinista, e Gigi Bresciani ci ha fatto fare l'apertura. A David Bromberg gli ho detto: allora mi deve una suonata. Sì, ho rischiato la galera, lui gli ha spiegato il tutto, e ok, sì, da un play. Ci siamo seduti lì nel camerino, cioè, mi ha fatto una suonata e Marco Grompi ci ha filmati. Ma c'è uno specchio in mezzo dove si vede Marco Grompi che ci filma. Quindi siamo lì tutti e tre. Perché voleva essersi anche lui. Ma è giusto. Ecco, allora, e cos'è cambiato nella tua vita anche in quella sera? Ma mi sono sentito innanzitutto risarcito. Moralmente risarcito. Poi, in quanto a Warren Haynes, sono 35 anni che aspetto qualsiasi cosa che si chiami Allman in Italia. Io sono un fan assoluto degli Allman Brothers. Ho due miti, tre. Allman con Duane e Rory Gallagher. E invece è venuto lui è già abbastanza, diciamo. Poi li ho visti sezionati, ho visto Derek Trucks con la sua band, Greg Allman al Pistoia Blues, ma tutti insieme mai. Ecco, vedi. Infatti non hanno mai suonato in Italia gli Allman Brothers, ma neanche ai tempi d'oro. Peccato. Volevo chiedere a Marco, tu sei l'unico di Rastis ad aver conosciuto di persona Neil Young. Ah, sì. È vero? Sì. Ne fai vanto nel gruppo? No, non mi vanto. L'ho incontrato 3-4 volte, sempre per motivi che non erano inerenti Rastis. Sì. Quindi, perché ricordiamo che tu, oltre a essere chitarrista, armonicista, sei anche scrittore, giornalista, Marco. Sì, per tanti anni ho scritto per Buscadero, poi qualche anno per Jam, poi di nuovo per Buscadero. Insomma, mi era capitato di incontrarlo la prima volta da fan, cioè proprio prima ancora che scrivessi, l'ho aspettato fuori dall'albergo dove alloggiava e gli ho stretto la mano. E poi le volte successive invece interviste o conferenze stampa o situazioni, diciamo, più professionali. Sempre considerandolo un mostro sacro della musica internazionale. Allora, Gekambiat, in un certo senso, come si dice dalle parole della traccia numero 3 di questo Dretch al Core. Gekambiat cosa? È cambiato il mondo, Osvaldo? È cambiato tutto perché quando ero bambino, io sono di una famiglia di contadini, venivano allora chiamavano i macchinari del frumento, perché c'era ancora il trattore che accendevano con la bombola davanti, poi attaccavano ste cinghie lunghe con tutti i macchinari e ricominciavano a lavorare il frumento, veniva lì vari contadini a prendere un sacco, due lo pagavano così e poi la sera si faceva festa. Ma stavo pensando, sono partito da lì e adesso mi ritrovo col mouse. Sì, cioè, e quindi ho fatto un po' il resume di tutto. Prima c'erano i topi sul granaio, nel granaio, e adesso il topo, il mouse c'è anche sulla tua scrivania. C'è il mouse sulla scrivania, che è una roba. Apri il file. Ogni tanto penso, se ci fosse il mio povero papà, dico, apri il file, mi tira una mazzata sulla testa. Vedi i ragazzini rapidissimi, aprono, chiudono, e quindi mi è venuta questa canzone. Ce l'ascoltiamo? Sì. Rigorosamente dal vivo, Osvaldo Ardenghi con Marco Grompi e Lori Pontigia. Questa è Gekambiat. Macchinare del Formed, venia le la sed, ai dio Laura, prima de dienta farina, prima de dienta pa, e alla sera te insieme fa festa, polenta e codeghi, col fiaschetto del vi, parla gregna scherza, ergu a canta e la fatica la sparia, o oh, l'allegria. La maniera de Laura, chissà se l'impiegati in città l'alza dentro lì al bar. Che cambia la maniera de Laura, adesso il contadino al fa tutte per lui, gli fa festa più di chi. D'estate finì la scuola, te ci in piazza, scambia i figurine, se galba lu. Come cazzo un passo in piante nascondice sotto i foglie nel bosco che ci sporca, e alla fine della giornata una predica, una lada, e dopo cena che ci lecce, che cambia la maniera de cres in piazza che trafec ta Radio Star. Che cambia la maniera de cres, la proprietà privata che te recinta da più de più da. Rotolant i prats, fa el bany in del ri a pescar, coi mà. Escalca i fossats, dins l'aqua al fontaní, tres ai senter, com a l'era ayer. A de sis xets i senta i jo al computer, a la televisió, al samus nigu. Per fai jugar, per fai saltar, per fai nudar, per fai divertir, me cai a porter gu. Que cambia la manera de campar, la paga del pader la basta, per gu i fa se la car. Que cambia se sopra pis, el padre arriba più alla fine del mis. Che cambia la maniera de campar, forse ergui ha sbagliat de seguirmi a chi l'ha creato il prat, forse ergui ha sbagliat de seguirmi a qui l'ha creato per me. Radio Sera. Ancora buonasera a tutti, siete all'interno della programmazione serale di Blu Radio Veneto, Blu Radio Sera per l'appunto. Io sono Flavio Bilato, con me c'è Maurizio Calzavara, insieme stiamo ascoltando le versioni live da disco di Osvaldo Ardenghi, che è qui con noi in questa serata direttamente da Bergamo. Insieme a lui c'è Marco Grumpi e Lori Pontigia per i cori. Allora, Ghe Cambiate, abbiamo capito quella che è stata la straordinaria, se vogliamo in negativo, faccenda dove si andava meglio quando si andava peggio, in un certo senso. Però Ghe Cambiate, non si può far niente, il progresso avanza, il frumento si taglia in un'altra maniera e... ormai un contadino oggi ha tutto, fa tutto da solo praticamente. Uh-huh. Non è che ha bisogno di una volta che c'è un trattore di certe dimensioni e fanno tutto. Io lo guidavo il trattore già a 6-7 anni e mi appoggiavo col sedere sulla punta del sedile perché non arrivavo all'acceleratore, ai pedali. Mio papà mi metteva sul trattore, io andavo avanti piano, ricaricavo il fieno o il mangiare per le mucche, così. E poi è diventato anche fonte di guadagno, perché andavo anche per altri, ci andavo io, questo già nelle medie però. Eh sì, perché il trattore un tempo ce lo si, diciamo, affittava tra una e l'altra. Ti chiamavano i contadini, vieni a farmi questo lavoro, quanto ti devo. C'era una famiglia, mi ricordo, mio papà mi diceva: prima vai sempre da quelli che pagano subito e non ti chiedono mai lo sconto. Ecco, sì, sì. Quando invece vai dal, ma hai detto il nome, se la cosa fa 20, digli 40 e ne prendi 10. Ecco, pensavo 30. Certo. Infatti mi dice: quant'è? 40. 10 sono anche troppo. E dovevo accettare 10. Allora, abbiamo ascoltato in questa versione live, diciamo, due chitarre, i cori di Lori per l'appunto. Nelle versioni live sul palco, come esprimi queste canzoni? Ma siamo gli elettrici, siamo cinque elementi più le due coriste, in questo, finora ci sono sempre state Lori Pontigia e Veronica Sbergia. E siamo in sette praticamente, lo riproponiamo come su disco con l'arricchimento delle due coriste. Delle due coriste. A proposito di questo, Flavio, io ho detto prima a Marco, ad Osvaldo, sei stato bravissimo, hai sostituito la elettrica con l'acustica, ma le so a memoria, mi ha detto, le so a memoria il pezzo, immediatamente. Ogni tanto, no, le so a memoria, ma sbaglio. Beh, è giusto che sia. Ho visto anche, è umano. Ho visto anche Mark Hoffner steccare, anche dice Blackmore. Però ci sta, dal vivo è giusto che sia così. Se no, certo. Se no che vivo è. Assolutamente, anche perché poi se ne accorge solo l'artista che ha sbagliato in quel momento, ma il pubblico preso dalle mille sonorità. Sì, è la tendenza di molti, che poi ci sono i pignoli che guardano l'unica cosa che hai sbagliato e le 50 belle no. Ecco, no. Sì. Allora, sentiamo Marco cosa ne pensa sull'argomento, visto che è musicista e anche scrittore e quindi anche critico. Musicale. C'è di bello che la stecca dal vivo passa e poi tutti se la dimenticano. Sì. Mentre i dischi si cerca di farli bene, o le registrazioni, perché quelle rimangono. Sì, perché poi magari la stecca fa parte integrante di un bootleg ricercato, poi esatto. In un certo senso. Sì, oddio. Sì, perché sono quelli che ragionano così. Mi manca quel disco, il bootleg con la stecca. Sì. Ci tengono. Ha sbagliato il testo. Sì, perché la quarta strofa ed è una rarità. È una rarità. Sai cosa può valere una roba del genere? Assolutamente sì. Quindi... allora una stecca, tutti i concerti dobbiamo farla, non si sa mai. Sì, ecco, certo, perché poi potrebbe moltiplicare il suo valore nel tempo. Benissimo, allora questi sono i pezzi di Osvaldo Ardenghi. Ricordiamo che stiamo presentando Dreccia al Core, che è il suo ultimo lavoro, che stiamo presentando sia in versione da disco che in versione acustica. Allora, per andare avanti, si parlava appunto di sociale, si parla di intimismo, si parla degli altri, si parla della propria città, si parla di una persona che si chiama Giovanni, o Joanne, come lo chiami in bergamasco. Joanne è una persona particolare, un po' sfortunato, se vogliamo. Sì, era un signore che conoscevo, che quando beveva aveva uno sguardo di sfida, ma non andava mai oltre. No? Però era fastidioso. E una sera mi raccontava che non aveva le sigarette da fumare, all'epoca non c'erano i distributori, è andato sul solaio, aveva le cartine, ha grattato via il legno di una vecchia sedia, l'ha tritato e l'ha fumato. Incredibile. Ma neanche Bob Marley avrebbe fatto una roba del genere. Bob Marley aveva delle piantagioni dalla parte sua. Non sarebbe mai rimasto senza. E lui mi ha raccontato, era sempre pulito, preciso, molto, un omone con gli occhi azzurri, però sempre questo sguardo di sfida. Poi così ha detto, vabbè, quando Pappalardo mi ha detto fammi sto disco, mi è venuto in mente e ho detto Joanne, ti devo una canzone, perché quella lì che hai tritato il legno e ti sei fumato è da lì è nata sta cosa. Lui viveva da solo, allora aveva una cascina, c'era lì i bagni all'esterno, quindi era una stanza unica dove aveva l'angolo cottura così e un altro angolo il letto e il camino, una stanza unica. E io l'avevo vista, mi aveva fatto tristezza proprio questa roba lì così, e allora è venuta sta canzone che adesso parla di lui, ma parla un po' male di molti scapoli, chissà quanti hanno desiderato avere una donna, un figlio, e poi magari non, o perché non hanno avuto possibilità o l'ho trovato quella giusta, che non è il caso di adattarsi. E sai, non la trovo, mi adatto, no, o mi piace o non mi piace, se no poi è un casino. E lui probabilmente si è spento così con l'alcol, però sempre pulito e preciso fino alla fine. Non era l'ubriacone magari che comincia a perdere la dignità verso la fine, no, lui era sempre uno. Ci ascoltiamo Giovanna? Dai. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Será. Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Joan, abbiamo ascoltato questo pezzo veramente bello, veramente sentito, con questo finale un po' alla Pink Floyd, no? Tanto per evidenziare questa sua andata che ha sconvolto un po' il mondo di chi lo conosceva, vogliamo tradurla così. Infatti, la parte finale. Molti mi chiedono anche lì in paese, ma chi è sto Joan? Non lo direi mai chi è, perché lo dice la canzone chi è Joan, non deve... Certo, tra altre cose la particolarità è che le tue canzoni non rispettano i famosi tempi commerciali, vanno un po' oltre, finché c'è qualcosa da dire la si dice all'interno della canzone, quindi sto parlando di tempi di 6 minuti, 6 minuti e 12, i 7 minuti e 45 sì, dell'ultima canzone. Non me ne frega niente di stare a... Cosa vuol dire una canzone? Non deve durare più di 4 minuti, la dea dura 2 minuti e mezzo. Sì. Perché la sento così, non era necessario andare oltre. Certo. No, magari si può togliere qualcosa sugli assoli o roba del genere, ma al momento in cui mi diverto non me ne frega niente. Poi era gratis, cioè mi ha pagato lo studio. Ah, beh, chiaro. Sì, certo. Se pagavo io gli assoli, toglievo tutti. Per quello. Beh, a proposito di questo pezzo, abbiamo parlato mentre il microfono era spento, che è un blues torrido. Marco ha tirato fuori anche Mark Lanegan, però è un blues torrido assolutamente, proprio con tutti gli effetti molto particolari, proprio nero, pressante, proprio l'hai voluto così. Sì, e poi il fonico in quel periodo lì era a rischio infarto, ci ha messo tutta quella roba lì di sofferenza, gli ho detto devi strangolarlo quel pezzo qui, devi scannarlo, no, non fare, e lui ha cominciato con questa effettistica, poi lui l'ha mixata a modo suo senza essere troppo invadente ed è uscito questo finale disperato, è stato molto bravo, veramente. Sì. Parliamo un momento con la Lori, che ha una band, e il suo avvicinamento a B.B. King. Lori, beh, tutto è iniziato nel 1992, quando c'è stata questa occasione di seguire un tour italiano con B.B. King, quindi erano 7 date, io non ho ancora 18enne, quindi per me era veramente una grandissima opportunità, e quindi niente, siamo 9 elementi, oltre ai classici soul uniamo anche dei pezzi inediti e quindi ci divertiamo, e dal 92 seguite sempre B.B. King. Abbiamo seguito quando viene in Italia anche qualche data con James Brown, però ci siamo divertiti. Bene, una cosa molto positiva. Bella esperienza. E non mi lascio mancare nulla. Pare giusto che sia così. Salutiamo anche Alberto Pisco, il nostro direttore artistico, e come sempre presente nelle occasioni più importanti. Allora, si diceva in principio di trasmissione, Osvaldo, che tu, alla pari di molti bergamaschi, sei un tifoso, oserei dire sfegatato, della tua squadra, l'Atalanta, che porta i colori nero-azzurri. Sì, ma non come gli altri. Non come gli altri. Come quelli del Pisa. Ecco, qualcosa d'altro, certo. Non volevo assolutamente nominare una squadra che è molto più vicino chilometricamente parlando del Pisa. Sono stato stamattina a prendere latte e le uova nel negozio lì accanto, c'era lì 3 interisti, la ragazza che lavora lì, il banchiere e un altro. E detto, quanto ti devo, vado, perché non mi piace questo posto. Ma così scherzando, naturalmente. Sì, ci stiamo ancora chiedendo come sei stato invitato tu, visto che Alberto Prisco è notoriamente interista. Quindi... probabilmente perché li abbiamo graziati con rigore quest'anno al 90° a Bergamo, e il rigore negato su Gabbiadini a Milano, quindi posso essere felice, erano 6 punti persi. Infatti quando sono venuti a Bergamo ero ospite in una trasmissione locale, Fa cosa ne pensi? Guarda, tutto sommato l'Inter un punto a Bergamo per la salvezza è utile. Ci stiamo qua quasi, Quindi, vabbè, allora tu per la tua Atalanta, che tu definisci la dea, hai scritto una canzone. Sì, però come quando ho chiesto a Iannacci, gli ho fatto sentire il CD, qual è che ti piace, mi fa, e mi piace che cambiate, è la dea. Come la dea? La dea è uno scherzo. Sì, ma è difficile che un bambino si innamori di una squadra che perde. No. E vedi. Quindi è partito, però prima di tifare Atalanta non avevo una squadra, tifavo Riva. Gigi Riva. Gigi Riva, fantastico. Sì. Sì. Sentite, avevo quindi questa cosa. Infatti, poi quando è tornata in Serie A, ho detto: mio zio, portami ancora a vedere, perché da quell'1-0 contro il Monza in casa non sono più andato. Sono andato quando è tornata in Serie A contro il Cagliari, perché volevo vedere Gigi Riva. Bene, ascoltiamo la Dea. Va bene. No. Facciamo un pezzo. Sì, fare un pezzo prima, esattamente. Facciamo sentire com'è nata. Esattamente. Com'è nata la Dea? È nata sull'acustica, così in casa davanti al camino. L'ha cominciato quando si era scelto l'ed, e zio il Madic a porta stadio ed, la partita dell'Atalanta ansera in Serie B al fiocal, ma per diti in cal so resta mal fa negot. Radio Sera. Forza Atalanta. Bene. La Dea con Osvaldo Ardenghi. Abbiamo iniziato nella maniera acustica, nella maniera in cui era nata questa canzone, e poi abbiamo cavalcato un'ondata quasi punk, diciamo, con la tua voce grintosa, che grintosa sia nella parte punk, però anche nella parte folk ci metti questa tua voce. Ho questa di voce. E questa come Lemmy dei Motorhead. Fantastico. Uno ha scritto, un critico ha scritto che hai una voce impastata di sigarette. Cosa dici? 7-8 al giorno le fumo, ecco. Ma non però, so però anni fa ne fumavo di più. Sì. Perché sai, fino alle 5 di mattina, 5 di mattina, e mia madre dove vai? Sempre fino alle 5 di mattina. Ora mio padre con lo sguardo tra il fiero e tirati assieme, no, dove vuoi che sia andato fino alle 5 di mattina. Qui invece ero in giro, magari sempre lì in zona o... Lo sai, una birra, sigaretta, chiacchiere, chiacchiere, non 5 di mattina, senza fare nulla di particolare. Certo, certo, certo. Poi negli anni 80, tra i 20 e i 30 anni, ero, andavo a 1000. Lì dormivo 3-4 ore a notte, lavoravo in fabbrica, mi andavo a letto alle 3 di notte, dopo aver suonato mi alzavo alle 5 e mezza a fare il primo turno delle 6 alle 2, tornavo a casa, vado a letto, trovavo l'amico, andiamo al lago, via al lago. Incredibile. Tutta la roba così, 3-4-2 ore. Mi mamma mi chiamava la mattina, preferivo una coltellata al fegato, non chiamarmi alle 5 e mezza. È ora di alzarsi. Perché mio padre tollerava tutto, ma vai a lavorare. Sì, anzi, vai a lavorare presto così torni prima, no? C'era la mentalità. Di è che si stanca da sé di tornare tardi. Non è mai capitato. Non è mai capitato. Benissimo, diciamo ai nostri ascoltatori, Osvaldo, come fanno ad entrare in possesso del tuo disco Dretch al Core. Lo si può trovare online sul sito www.comunicarti.it. Lì alla sezione concerti si possono prima ascoltare i pezzi e poi eventualmente si vogliono comprare, costa 10 euro il CD più 2 euro di spedizione. A proposito di concerti, qualche appuntamento, Osvaldo, da dire? Allora abbiamo, partiamo dal primo con i Rastis, il 20 aprile quindi fra poco. Al Club Il Giardino di Lugagnano di Sona, provincia di Verona. Provincia di Verona, stiamo in Veneto. Un bel club dove sono passati dei leggendari musicisti. Anche gli Strokes, dicevi l'altro giorno. Anche gli Strokes, recentemente i Walkabouts, l'anno scorso i Fairport Convention, insomma la gente è un po'... Tosta, esattamente. Poi il giorno dopo faremo una data ancora nelle nostre zone in acustico, al Bopo, a Punteranica. Poi il 30 aprile suoneremo al paese mio, una cosa molto così spartana tramite il comune. Facciamo i pezzi Dretch al Core, faremo anche dei pezzi dei Rastis perché è una festa primaverile, quindi non certo. Saremo al completo, penso. Poi vabbè, una serata di cabaret il 13 a teatro, il 13 aprile, in un teatro di Suigio, per i ragazzi. Cioè è stata organizzata per i ragazzi, per uno spettacolo che funziona dai ragazzi delle superiori in su. Capito. E quindi come si svolge questo spettacolo, Osvaldo? Si intitola L'Alternativa, è un po' una presa in giro alle pasticche, all'alcol, la guida pericolosa, il modo di evadere il sabato sera. E quindi per i ragazzi, infatti me lo fanno fare anche nelle scuole dopo Pasqua a Milano, a Bollate. L'ho già fatto l'anno scorso un paio di volte per i ragazzi delle scuole. E poi è un po' una presa in giro, o comunque con quella leggerezza, quasi insufficienza di modo di affrontare la scuola, sia da parte di certi professori sia da parte di certi studenti, non dico tutti, perché poi non studi, va a finire che fa un lavoro di routine e lì è citato. È tutto comico, ma la chiusa finale è invece una botta alle pasticche e alla maleducazione. Ho capito. Certo, quindi questo viene intervallato da pezzi musicali o è tutto No, teatro no. È tutto magari, parlato? Magari alla fine sì. Quindi comunque, non ti porti la chitarra? Sì, me la porto sempre. Me la porto sempre e poi alla fine faccio qualcosa per stemperare. Avevo fatto anche al Festival Teatro Canzone Giorgio Gaber quel pezzo qui, infatti Lupporini è stato l'unico che è venuto a dirmi fa complimenti, come città molto sottile, e poi l'unica parolaccia che usi è una presa in giro, la maleducazione. Mi ha fatto piacere, però lì eravamo su 120, ne hanno presi 5 tra i finalisti e c'ero. Bene. A Viareggio. Non è servito a nulla. Gli avevo detto Iannacci, ma se vado lì cosa succede? E succede che li fai divertire e poi non succede nulla. Assolutamente. È stato. Quindi il bello immediato e poi il futuro... Certo. Vabbè, il futuro è incerto. Le sicurezze dell'uomo moderno di oggi, dopo le batoste che stiamo prendendo un po' alla volta. Tra un po' sarò esodato. Vabbè, allora. Il futuro non è più un problema, il 2012, ricordiamo. No. È un problema solo per i Maya, il 2012. Ma solo per i Maya? Sì, certo. Per i Mangia. No. Vabbè, allora torniamo a parlare di Bergamo. Prima abbiamo parlato della Bergamo vista sportivamente, quindi con l'Atalanta, adesso questa visione di Bergamo, la tua città, che è proprio bella quando ritorni a casa, l'autostrada la descrivi in una maniera stupenda. È bellissima città alta, per chi non l'ha vista la deve vedere. Bene. Perché è una cosa veramente bella, tenuta bene. Sono fiero di essere bergamasco proprio per Città Alta e per Gimondi. E per Gimondi. Certo. Vabbè, allora ce l'ascoltiamo dal vivo. Va bene. Le proprio bella. Le proprio bella. Sentitela così. Sì, sì. Bene. Sera turne de Milà, un momento prima del casel, prima de pagare, alla mia sinistra tire ne giada, la è de tutta bella illuminata. I finestre e accendini, al concerto per la pace, i stradini e i semeaene, indolisco la storia, i tec o il capel de teci abitanti, i mure, la sicurezza de 600 anni, la bella. Città Alta le proprie bella, le bella. Città Alta le proprie bella. Quando passa la porta Sant'Agostino, i coppietti sui banchini, i fiori in di giardino, filar de it, l'ort ben tegnit, son città, ma su me a campagna. I vie col ciotolato, i vie col pavè, col profum del pa e il profum del caffè. Piano piano i ti porta in piazza Egia, la piazza con ogni faccia una rasa. O il giapponese al fa la foto, l'inglese al mangia il gelato, la sciura del post col cagnì, o il tedesco al bis la birra, o il vigile fa girare il fischietto, o studente l'ampica alla scuola. Città Alta le proprie bella, la bella. Città Alta le proprie bella. Città Alta le proprie bella. Città Alta le proprie bella. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Una canzone questa che dà forti vibrazioni, dà la pelle d'oca a noi che siamo di Padova, che siamo veneti, figuriamoci i bergamaschi quando ascoltano questa tua canzone, Osvaldo. Ma intanto non mi hanno ancora detto nulla. Ah, è perché se lo tengono dentro. Se lo tengo, sì, il bergamasco è così, il bergamasco è chiuso, è, sembra che faccia casino, ma poi alla fine sotto sotto è uno che abbassa la testa e lavora. Grande volontà, grande... Però poi quando un paio di bicchieri si aprono, poi ti accorgi che comunque c'è questa cosa dentro. Sì. Secondo me i bergamaschi, mi ricordo un ragazzino quando c'è stato il terremoto a Lioni, Avellino, quelle zone lì, sentivo sempre, sai com'è qui al nord, anche nel bar, ma è terribile. Quando è stato il terremoto, la città di Bergamo è stata quella che ha mandato più soldi a Lione, no? Che poi sono così alla fine. Ma sai, non puoi lasciarli lì così, ma vorrei vedere te se ti casca la casa, perché poi entrano in questa cosa, no? Però prima sono sulle loro e... Non si esprimono molto. Esattamente. E ti sei espresso bene musicalmente, perché è una ballad vera e propria questa. Sì, è delicata come la città. Poi la Lori l'ha colorata con la sua voce. Sì, ma lei ha queste capacità di colore vocale. È interessante, la ragazza è interessante. Allora, mentre facevamo la scaletta, prima di entrare in diretta, ho sentito la parola detta da qualcuno di voi, non ricordo chi, Wild Dogs. Sì, che è la title track dell'ultimo disco del CD dei Rastis. Mm-hmm. Ma però nasce molto più lontano questo pezzo, che si intitolava Licaoni. Era proprio addirittura sulla musicassetta. Anche lì mi è stata prodotta, che quando mi producono io compongo. Se devo produrmi faccio fatica, non so. Vogliamo citare brevemente questa Wild Dogs come faceva? Ma la suoniamo anche tutto, no? Benissimo. Ok, vai. Sì. Nella giungla tormentata delle leggi ci sono animali che non perdonano. Esemplari supercarnivori dall'aspetto orribile promettono ma non mantengono mai, in compenso mangiano molto, si nutrono di vite umane. Il loro modo di cacciare è una vera strategia di guerra. La loro preda ambita è il lavoratore. Cominciano col farlo correre verso i numerosi sportelli. Licaoni, Licaoni. Di bolli, superbolli e marche da bollo, sorge la tassa sull'anzianità, come se invecchiare così fosse un lusso. La corsa va avanti così dai 101 ai 730, frequenti scatti con lievi aumenti, e la preda è sempre più vicina ai loro denti. Gnam, gnam. ormai esausta che respira l'ora tredicesima. Trattenute di vita prima del colpo finale, poi l'ultimo abbaglio, il conguaglio. E dopo il conguaglio il cordoglio per la vittima che ancora deve pagare la fattura della tomba come conto finale. Radio Sera. Fantastico questo pezzo, eh? Licaoni d'Italia. Si è parlato del duro lavoro, di tutte queste cose che variano in maniera così repentina. Uno perde anche il, come dire, il filo di quello che sta succedendo, e poi si ritrova anche la fattura dopo morto, no? Sì. Quindi, ma paghi anche dopo, perché paghi, sì, il lumino. Sì, sì, sì, certo. Quindi siamo proprio ridotti al lumino in questo, sì, caso. Io ho un pezzettino d'orto, non posso essere seppellito qui senza comprare un oculo. Purtroppo gli affari si fanno anche lì, quindi la famosa cosa che il falegname la fa ma non la usa, perlomeno per il periodo, chi la sceglie la paga e chi la usa non la vede, no? Infatti, quindi stiamo parlando di quella... No, ma io ho scoperto, sì, che c'è una cassa da morto da 200 euro per la cremazione, sì, più 400 euro di cremazione e 150 euro per attraversare il cimitero, perché il crematorio è dall'altra parte del cimitero, ma detto quello delle pompe funebri, c'è da pagare 150 euro per attraversare il cimitero. Che basterebbe un po' di vento per farla attraversare da solo. Ti mando un saluto, Andrea Van Cleef. Ciao Andrea, sei un grande. Aveva una bellissima voce anche lui, questo. Decisamente. E ha fatto un album meraviglioso che verrà a presentare qua, immagino. Ah, perfetto, quindi abbiamo già una nuova data da presentare, non sappiamo ancora quando, però questo Andrea Van Cleef, diciamo. Sì. Bene, sì. Bene. Ok, allora il tempo è passato così in fretta che non ce ne siamo accorti, perché adesso, proprio quando si stava prendendo veramente vigore con la trasmissione, è giunto anche il momento di salutarci. Però naturalmente strappiamo l'invito per un'altra volta anche a Osvaldo. Il 27 giugno verrà, in ogni caso. Il 27 giugno? Esatto. E visto che ti abbiamo già programmato la vita? Quali giorni prima del compleanno di Vallanzasca. Ecco. Vedi? Allora, il 27 giugno ancora Osvaldo con noi, con i Rastis. No, con Andrea Van Cleef. No, con Andrea Van Cleef, ecco qua, con Andrea Van Cleef. Bene, 27 giugno. E allora, grazie a Osvaldo, grazie, ringraziamo anche Lori Pontiggia, ringraziamo anche Marco Grompi per averti accompagnato qua e per aver accompagnato con la sua chitarra le tue canzoni. E quindi rinnoviamo l'appuntamento molto presto, rinnoviamo ancora il sito internet da dove si possono acquistare i dischi, www.comunicarti.it. Bene. Alla voce concerti si apre questo sito e si possono ascoltare i pezzi prima intero, per intero, e poi decidere di comprarlo o meno. Ricordiamo... ho venduto il primo ieri. Ah, benissimo. Bene. A Torino. Bene. Con dedica, perché è il primo. No, non lo so, ma probabilmente in concomitanza con la come si dice, con la recensione del Buscadero, perché mi sembra strano quello di Torino. A meno che abbia origini bergamasche, ma non credo. Bergamasche in Italia, eccoli qua. Bene, quindi ci sono tanti Ardenghi in Brasile, ho scoperto. Sì, certo. Sì, è vero, è vero. Ardenghi è un cognome classico che si sente molto da quelle parti. Da Brasile devo andarci. Benissimo, allora per gli amici anche brasiliani in ascolto ricordiamo che questa trasmissione si può anche riascoltare, l'abbiamo registrata apposta per gli ascoltatori che non hanno potuto, diciamo, partecipare con le proprie orecchie alla trasmissione, quindi all'interno dei nostri archivi sonori ci sarà anche questo. E ricordiamo appunto l'accesso tramite il nostro portale internet bluradioveneto.it. all'interno della notizia riservata a Osvaldo Ardenghi ci sono due possibilità: uno di ascoltare la trasmissione, è disponibile tra qualche giorno, e poi ancora di vedere le foto scattate durante la serata, anche per vedere anche l'Osvaldo, ecco. Benissimo, allora noi abbiamo terminato la trasmissione, però non te ne andare, tieni ancora imbracciata la chitarra perché ci devi fare un ultimo pezzo che parla di questi mestieri duri. Già si diceva con i Licaoni, si facevano parecchi riferimenti di questo, e vogliamo parlare brevemente di questo mester dur. Mestieri duri, io nei miei spettacoli di cabaret prendo in giro un po' i muratori bergamaschi, così ma so fino a che punto posso inoltrarmi, ovvio, però simpaticamente. Ma poi alla fine, se andiamo a vedere bene che lavoro fa il muratore, bisognerebbe spiegarglielo, farglielo fare un po' quelli in Parlamento, un'ora, due al massimo a Milano con dei cottimisti bergamaschi e dopo vedere se è il caso di andare in pensione a 67 anni o... sì. Ma per dire, no, io nelle mie possibilità li proteggo. No, e poi vabbè, anche il saldo, ho citato due o tre mestieri per dire, ce ne sono altri lavori usuranti, per l'amor di Dio, anche il suo lavorare sui tre turni, fare la notte per 40 anni è una bella, dicono statisticamente che uno che lavora di notte campa 7 anni in meno, ecco. Mediamente. Io allora sono stato in giro parecchie volte di notte, sono prossimo. Non lo so. Hai fatto i conti? Ho fatto i conti, accidenti, ho detto 40 anni, 5 della mattina. No, certo. Però in relax. No, però ha fatto anche 6 anni, 3 turni, Ecco, vedi. Sì. E comunque era un mester duro anche quando tu andavi appunto a letto quelle 3 ore e poi ti svegliava la mamma alle 5:30 del mattino. Mamma mia. Questo era il mester duro, Era un mester duro, sì, quello lì, era alle 5:30 di mattina. Ma poi quando arrivavo in fabbrica vedevo certe facce peggio delle mie, nonostante avessero dormito. Ecco, vedi, perché a volte il sonno, se non curato particolarmente, ti fa effetti peggiori. Bisogna dormire con cura. Con cura, certo. Vabbè, allora ringraziamo nuovamente Osvaldo Ardenghi, ringraziamo anche Lori Pontiggia, Marco Grompi, che sono stati con noi in questa serata. E arrivederci, una risentirci a presto con le canzoni. Questa volta sceglierai per il prossimo lavoro ancora il bergamasco o ti avvicini l'italiano, inglese, come sarà? No, ormai ho deciso, in italiano non canto più, perché l'italiano poi la gente non lo capisce. No, e quindi è meglio cantare in dialetto, che così almeno uno non capisce, se è incuriosito va a leggere la traduzione, certo. Perché se no in italiano ti sfugge. Dimenticavo, perché io non le ho lette tradotte, ma ho voluto proprio piacevolmente ascoltarmene in bergamasco per capirle. Poi il dialetto tra il veneto e il bergamasco c'è molta, molta somiglianza. Ma io il veneto lo capisco tutto. O stregheta. Casimuseto. Savuto. Savuto. Ho fatto il militare a Legnago. Ah, bene. No, e poi ho degli amici veneti. Io sono legato in particolar modo al Veneto per il militare fatto a Legnago e perché all'ospedale San Bortolo. Vicenza. Hanno ridato la parola a mio povero papà che aveva avuto una laringectomia e dopo 2 anni che non sentivo più parlare gli hanno messo una protesi e ha ripreso a parlare e per 10 anni ha vissuto ancora, diciamo, dignitosamente. Quindi ho un legame particolare con il Veneto. Bene, siamo contenti che anche il Veneto ti abbia dato qualcosa, magari una canzone in dialetto veneto in mezzo al disco ci starebbe, no? Se trovo l'ispirazione lo faccio, state attenti perché lo faccio. Va bene, era una minaccia questa di Osvaldo Ordenghi. Allora lo salutiamo ancora nuovamente Lori, salutiamo ancora Marco. Allora Maurizio, da parte di Flavio Vidato e Maurizio Calzavara è proprio tutto, ci sentiamo questo Mester Dur e a presto. Grazie a voi, ciao a tutti, Mester Dur. La multa, la zila, sul fer, al teca, sei ma, al meradur, al variste, salaura. Col colt, praghi, kirch, escarpunsi. Torso nudo, el sendicalsi, la schiena la è scura, tra il sole e il tec. Che definì una ca, ergu, indarà. Abita ergu di gara ya faccio un bel lavoro ol salder le guarciat estate inverno. Una luce la traverse vede riscur e la ma la gamia de trema che de segui il disegno i misure i satro. Respira la polvere della mula dura e alla sera io c'hai eros la faccia le viola. col pie visì al diavolo del minadur. Ma le quel che prega de pie ol signor per vedi col ciar de la sera se la circa folu cerdo de mei la mia trova ma le sicur che onestament chi quater sol c'è guadagnar che capias invece al se adatat ma il mester più dura la fa che la mia trova e mester du Radio Sera.